Capitolo 114. Il processo di Oreste. I micenei che avevano appoggiato Oreste nel suo inaudito crimine non permisero che i corpi di Clitennestre e di Egisto riposassero nella cinta della città, ma li seppellirono a una certa distanza oltre le mura. Quella notte Oreste e Pilade montarono la guardia presso la tomba di Clitennestra perché nessuno osasse saccheggiarla. Ma durante la loro veglia apparvero le erinni coi capelli di serpenti, il viso di cane e le ali di pipistrello e agitarono i loro flagelli. Esasperato da quei feroci attacchi, poiché l'arco di corno datogli da Apollo si rivelò di poco aiuto, Oreste si abbandonò su un giaciglio dove giacque per 6 giorni, il capo avvolto in un mantello, rifiutando sia di cibarsi sia di lavarsi. Frattanto giunse da Sparta il vecchio Tindario, che accusò Oreste di matricidio e ingiunse ai capi micenei di giudicarlo. Tindario decretò che durante il processo nessuno avrebbe dovuto rivolgere la parola a Oreste e a Elettra, e ad ambedue sarebbe stato negato asilo, fuoco e acqua. Così Oreste non poteva nemmeno lavarsi il sangue dalle mani. Le strade di Micene erano gremite di cittadini in armi ed Eace, figlio di Nauplio, esultò perché gli si presentava una buona occasione per infierire sui figli di Agamennone. Frattanto Menelao, con un carico di tesori, sbarcò a Nauplia, dove un pescatore gli disse che Egisto e Clitennestra erano stati assassinati. Menelao mandò Elena a Micene per avere conferma della notizia, ma la esortò a viaggiare di notte affinché i parenti di coloro che erano periti sotto le mura di Troia non la lapidassero. Elena, che si vergognava di piangere pubblicamente sua sorella Clitennestra, dato che lei stessa aveva provocato grande spargimento di sangue con la sua infedeltà, disse a Elettra, intenta a confortare l'afflitto Oreste: «Ti prego, nipote, prendi queste ciocche dei miei capelli e deponile sulla tomba di Clitennestra, dopo aver offerto libagioni alla sua ombra». Elettra, quando vide che Elena, mossa dalla vanità, si era recisa soltanto la punta dei capelli, rifiutò di obbedirle. «Manda tua figlia Ermione alla tomba invece mia», fu la sua secca risposta, a che Elena fece venire Ermione dal palazzo. Ermione aveva soltanto 9 anni, quando sua madre era fuggita con Paride, e Menelao l'aveva affidata alle cure di Clitennestra all'inizio della guerra di Troia. Tuttavia subito riconobbe Elena e rispettosamente fece quanto le era stato detto. Menelao, giunto al palazzo, fu accolto dal padre adottivo Tindario, avvolto in un profondo dolore che lo ammonì a non posar piede sul suolo spartano prima di aver punito i suoi criminali nipoti. Tindario sosteneva che Oreste doveva limitarsi a permettere ai suoi concittadini di esiliare Clitennestra, e se avessero chiesto la sua morte, avrebbe dovuto intercedere in suo favore. Ma stando così le cose, bisognava persuadere gli abitanti di Micene, volenti o nolenti, che tanto Oreste quanto Elettra, che l'aveva spalleggiato, dovevano morire lapidati come matricidi. Per tema di offendere Tindario, Menelao gli promise il verdetto che egli desiderava. Ma udita l'eloquente difesa di Oreste stesso, che era presente in tribunale e contava sull'appoggio di Pilade, ora rinnegato da Strofio per la sua partecipazione al delitto, i giudici commutarono la sentenza di morte in sentenza di suicidio. Pilade allora guidò Oreste fuori dell'aula, nobilmente rifiutando di abbandonare sia lui sia Elettra, della quale era promesso sposo, e propose che, prima di morire tutti e tre, avrebbero dovuto punire la codardia e la slealtà di Menelao uccidendo Elena, la causa di tutte le disgrazie che erano loro capitate. Mentre dunque Elettra aspettava presso le mura per eseguire il compito che le spettava, cioè fermare Ermione al suo ritorno dalla tomba di Clitennestra e trattenerla come ostaggio per piegare la volontà di Menelao, Oreste e Pilade entrarono nel palazzo con le spade celate sotto i mantelli e si avvicinarono all'altare centrale come supplici. Elena, che sedeva lì accanto e filava la lana per intessere una veste purpurea da deporre sulla tomba di Clitennestra, fu tratta in inganno dai loro lamenti e si fece avanti per dar loro il benvenuto. Allora ambedue strassero le spade, mentre Pilade scacciava le schiave frigie, Oreste tentò di uccidere Elena. Ma Apollo, per ordine di Zeus, la portò sull'Olimpo, avvolta in una nuvola, e colà essa divenne immortale, unendosi ai suoi fratelli Dioscuri come protettrice dei marinai in pericolo. Frattanto Elettra si era impadronita di Ermione e l'aveva condotta all'interno del palazzo serrando le porte. Menelao, vedendo la figlia minacciata di morte, ordinò che si accorresse in suo soccorso. Gli uomini di Menelao forzarono dunque le porte e Oreste era sul punto di incendiare il palazzo, uccidere Ermione e morire egli stesso per spada o per fuoco, allorché apparve provvidenzialmente Apollo, gli strappò la torcia dalla mano e respinse i guerrieri di Menelao. Nel reverente silenzio creatosi per la sua presenza, Apollo ordinò a Menelao di prendersi un'altra moglie, di fidanzare Ermione a Oreste e di tornare a governare su Sparta. Né più doveva occuparsi dell'assassinio di Clitennestra, ora che gli dei erano intervenuti. Reggendo un ramo d'alloro intrecciato con fili di lana, a indicare che egli era sotto la protezione di Apollo, Oreste si mise in cammino per Delfi, sempre inseguito dalle erinni. La Pizia inorridì al vedere Oreste inchinato come un supplice su una marmorea pietra ombelicale, macchiata dal sangue delle sue mani impure e la mostruosa schiera delle nere erinni che dormivano accanto a lui. Apollo tuttavia la rassicurò promettendo che egli avrebbe interceduto in favore di Oreste, e a Oreste ordinò di affrontare la sua prova con coraggio. Dopo un periodo di esilio, doveva recarsi ad Atene e colà abbracciare l'antica statua di Atena, che l'avrebbe protetto con la sua egida col volto di Gorgone, annullando la maledizione. Mentre le erinni erano ancora immerse in un sonno profondo, Oreste fuggì sotto la guida di Ermete, ma l'ombra di Clitennestra entrò nel sacro recinto e incitò le erinni al loro compito, ricordando che esse avevano spesso ricevuto dalle sue mani libagioni di vino e crudeli banchetti di mezzanotte. Le erinni allora partirono di nuovo all'inseguimento, sprezzanti delle minacce di Apollo. L'esilio di Oreste durò un anno, il periodo di tempo cioè che deve trascorrere prima che un omicida possa presentarsi di nuovo tra i suoi concittadini. Egli vagò lontano, per mare e per terra, perseguitato dalle instancabili erinni e costantemente purificandosi con sangue di maiale e acqua corrente. Tali riti tuttavia bastavano appena a placare le sue tormentatrici per un'ora o due e ben presto egli perse il senno. Dapprima Ermete lo accompagnò a Trezene, dove egli visse in quella che ora si chiama Capanna di Oreste, di fronte al santuario di Apollo, e nove degli abitanti della città lo purificarono sulla sacra roccia, accanto al tempio di Artemide Lupa, usando l'acqua della sorgente Ippocrene e il sangue di vittime sacrificate. Un antico albero di alloro indica il luogo dove le vittime furono in seguito sepolte e i discendenti di quei nove cittadini ancora cenano annualmente alla capanna in un giorno fissato. Di fronte all'isola di Cranae, a 3 stadi circa da Gizio, si trova una pietra grezza chiamata la pietra di Zeus guaritore, sulla quale Oreste sedette e fu temporaneamente guarito dalla sua follia. Dicono anche che egli fu purificato nell'acqua di 7 fiumi presso Reggio in Italia, dove costruì un tempio, in quella di 3 tributari dell'Ebro in Tracia e nell'Oronte, che scorre al di là di Antiochia. A 7 stadi lungo la strada che conduce da Megalopoli a Messene, sulla sinistra sorge il santuario delle Dee Folli, un appellativo delle erinni che colpirono Oreste con una terribile crisi di follia. Vi è anche un piccolo tumulo sormontato da un dito di pietra e chiamato la tomba del dito. Esso indica il luogo dove, mosso dalla disperazione, Oreste si amputò un dito con un morso per placare le nere dee. Quindi alcune di loro infine divennero bianche e Oreste recuperò il senno. Egli poi si rasò il capo in un santuario adiacente chiamato Ace e fece un'offerta espiatoria alle dee nere e un'offerta di ringraziamento alle bianche. Si usa ora sacrificare a queste ultime unitamente alle grazie. Poi Oreste si recò tra gli Azani e gli Arcadi della pianura Parrasia che, con la vicina città un tempo chiamata Orestasio, dal nome del suo fondatore Oresteo, figlio di Licaone, cambiò il suo nome in Orestea. Taluni, tuttavia, dicono che Orestea era prima chiamata Azania e che Oreste vi si recò soltanto dopo la sua visita ad Atene. Altri ancora dicono che egli andò in esilio in Epiro, dove fondò la città di Argo Orestia, e diede il suo nome ai Parorei Oresti, gli Epiroti, che abitano le dirupate pendici dei monti illirici. Quando fu trascorso un anno, Oreste si recò ad Atene, che a quel tempo era governata dal suo parente Pandione, o secondo altri da Demofoonte. Tosto entrò nel tempio di Atena sull'acropoli, sedette e abbracciò il simulacro. Sopraggiunsero le nere erinni, ansimanti per la corsa, poiché avevano perso le tracce di Oreste mentre egli attraversava l'istmo. Benché dapprima nessuno desiderasse riceverlo, perché inviso agli dei, col passare del tempo, taluni osarono accoglierlo nelle loro case, dove egli sedette a una tavola separata e bevve in una coppa di vino a parte. Alle erinni, che già avevano cominciato ad accusarlo presso gli ateniesi, ben presto si unì Tindario con la nipotina Erigone, figlia di Egisto e di Clitennestra, e anche, secondo altri, il cugino di Clitennestra Perilao, figlio di Icario. Ma Atena, che aveva udito le suppliche di Oreste dallo Scamandro, il territorio troiano di recente acquisito al suo culto, giunse in gran fretta ad Atene e, raccolti i più nobili tra i cittadini e i giudici, ordinò all'Areopago di giudicare quello che allora era soltanto il secondo caso di omicidio che a esso si presentava. A tempo debito si svolse il processo. Apollo vi apparve in veste di difensore e la più vecchia delle erinni come pubblica accusatrice. In un elaborato discorso Apollo negò l'importanza della maternità, affermando che una donna non è altro che l'inerte guaina nella quale l'uomo inserisce il suo seme, e che l'azione di Oreste era ampiamente giustificata, poiché il padre è l'unico genitore degno di questo nome. La votazione dei giudici si chiuse alla pari e allora Atena si dichiarò dalla parte del padre, dando il suo voto decisivo in favore di Oreste. Prosciolto dunque con onore, Oreste ritornò in Argolide e giurò di essere un fedele alleato di Atene fino all'ultimo dei suoi giorni. Le erinni tuttavia protestarono a gran voce contro questo sovvertimento dell'antica legge compiuto dai nuovi dei, ed Erigone si impiccò in espiazione. Sulla morte di Elena esistono tre discordanti versioni. La prima, che secondo quanto era stato predetto da Proteo, essa ritornò a Sparta e colà visse accanto a Menelao in pace e prosperità, e assieme salirono ai campi Elisi. La seconda, che essa si recò in Tauride con Menelao e che Ifigenia li sacrificò entrambi ad Artemide. La terza, che Poliso, vedova del re di Rodi Tlepolemo, vendicò la di lui morte affidando ad alcune ancelle travestite da erinni il compito di impiccare Elena. La tradizione che le erinni di Clitennestra facessero impazzire Oreste non può essere presa alla leggera, come un'invenzione dei drammaturghi attici. Tale tradizione era sorta troppo presto, non soltanto in Grecia, ma anche nella Magna Grecia. Tuttavia il crimine di Oreste, che le erinni punirono spingendolo alla follia, non fu d'aver ucciso sua madre, ma di averne provocato il suicidio. Pare dunque che il suo omicidio fosse soltanto colposo. Egli venne meno al dovere filiale perché non si oppose alla sentenza di morte dei micenei. I giudici di quel tribunale erano abbastanza influenzabili, come dimostrarono Menelao e Tindario quando fecero commutare la sentenza contro Oreste. Le erinni erano personificazione dei rimorsi di coscienza, capaci, come ancora accade nella pagana Melanesia, di uccidere un uomo che per trascuratezza e sbadataggine abbia infranto un tabù. Costui impazzirà e si getterà giù da una palma di cocco, o si avvolgerà il capo in un mantello come Oreste, e rifiuterà di mangiare e di bere finché morrà di inedia, anche se nessuno all'infuori di lui conosce la sua colpa. San Paolo avrebbe subito egual sorte a Damasco se Anania non fosse sopraggiunto al momento opportuno. Il metodo comunemente usato in Grecia per purificare chi si era macchiato di omicidio era di sacrificare un maiale e, mentre l'ombra della vittima ne beveva avidamente il sangue, lavarsi in acqua corrente, radersi il capo per mutare il proprio aspetto e partire per l'esilio per un anno intero, in modo da far perdere le proprie tracce all'ombra assetata di vendetta. Finché l'omicida non si fosse così purificato, i vicini lo evitavano come iettatore e non gli permettevano di entrare nelle loro case e di consumare il loro cibo, per paura di essere coinvolti nelle sue sventure. Inoltre egli doveva fare i conti con i familiari della vittima, posto che l'ombra implacata esigesse da loro vendetta. Se il sangue versato però era quello di una madre, la maledizione che ricadeva sul capo dell'omicida era così potente che gli abituali mezzi di purificazione non bastavano, e per non ricorrere al suicidio bisognava amputarsi un dito con un morso. Questa automutilazione pare avesse avuto un buon esito, almeno parziale, nel caso di Oreste. Allo stesso modo Eracle, per placare l'irata Era, si sarebbe amputato un dito che poi disse di aver perduto mentre lottava contro il leone Nemeo. In certe regioni dei mari del sud ci si amputa sempre una falange di un dito alla morte di un parente stretto, anche se si tratta di morte naturale. Nelle Eumenidi Eschilo probabilmente ha alterato una leggenda secondo cui Oreste fuggì nella Troade e visse senza essere perseguitato dalle Erinni e sotto la protezione di Atena sulla terra alluvionale formata dallo scamandro e che non ricadeva sotto la maledizione. Per quale altra ragione, infatti, sarebbe stata citata la Troade? Libagioni di vino anziché di sangue, offerte di ciocche di capelli anziché dell'intera chioma, sono varianti di questo rito propiziatorio, dal significato ormai scordato, così come lo è l'attuale consuetudine di vestirsi di nero, che non è più messa coscientemente in rapporto con l'antica usanza di ingannare le ombre dei morti alterando il proprio aspetto. L'immaginoso racconto di Euripide di quel che accadde quando Elena e Menelao ritornarono a Micene non contiene alcun elemento mitico salvo la sensazionale apoteosi di Elena. Ed Elena, dea della luna, era stata la patrona dei marinai molto tempo prima che i divini gemelli fossero riconosciuti come costellazione. Euripide, come già Eschilo, faceva della propaganda religiosa. La soluzione di Oreste conferma il trionfo finale del sistema patriarcale e ha luogo ad Atene, dove Atena, un tempo la dea libica Neith o la palestinese Anatha, suprema matriarca ma poi rinata dalla testa di Zeus senza l'aiuto di una madre divina, nega la condanna anche a un matricidio premeditato. I drammaturghi ateniesi sapevano che questo tema rivoluzionario non poteva essere accettato in alcun'altra località della Grecia. Perciò Euripide fa sì che Tindario, il rappresentante di Sparta, dichiari con veemenza che Oreste deve morire, e i Dioscuri osano condannare Apollo perché ha istigato Oreste al delitto. Il nome di Oreste, il Montanaro, è stato messo in rapporto con un selvaggio e montagnoso distretto dell'Arcadia, dove probabilmente nessun re di Micene mise mai piede. Le diverse versioni esistenti circa la morte di Elena hanno una giustificazione precisa. La prima serve a spiegare il culto di Menelao e di Elena a Terapne. La seconda è un adattamento teatrale della leggenda di Oreste in Tauride. La terza si riferisce al culto di Elena Dendrite, Elena degli alberi, che si identifica con Arianna, o con l'altra Erigone che fu anch'essa impiccata.